tutte le sere d'estate in cui mi perdo. Sono quei giorni in cui aspetto che si alzi il vento. E mi piace sentirne il profumo, e mi piace quasi come sentire il tuo odore. Domandarmi da dove proviene, non importa, io ti riesco a trovare. Come stai? Te lo chiedi mai, mentre fingi che va tutto bene. E lo sai, io e te come la Rai, funzioniamo fino al primo temporale. E chiamami, che non ho voglia di lasciarti andare. Chiamami, e giuro arrivo sotto il temporale. E tutte le volte che ho detto che voglio scappare, sono come le strade che incrocio ma senza guardare. E mi piace sentirmi al sicuro, ma ti guardo e forse mi piace più naufragare. Fuori piove da più di due ore, che mi importa, io ti vengo a cercare. Come stai? Te lo chiedi mai, mentre fingi che va tutto bene. E lo sai, io e te come la Rai, funzioniamo fino al primo temporale. E chiamami, che non ho voglia di lasciarti andare. E chiamami, e giuro arrivo sotto il temporale. In fondo so che ogni profumo non è mai buono come il tuo odore. E lo so da dove proviene, sì che mi importa, ti voglio respirare. Come stai? Te lo chiedi mai, mentre fingi che va tutto bene. Mentre fingi che tu mi vuoi bene. Come stai? Te lo chiedi mai, mentre fingi che va tutto bene. E lo sai, io e te come la Rai, funzioniamo fino al primo temporale. Chiamami, che non ho voglia di lasciarti andare. E chiamami, e giuro arrivo sotto il temporale.